stessa dei giri di testa, non andate girando di qua e là e qua e là e qua. Poco dura, dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me cominciato non ha, cominciato non ha. Ah, ah, ah, ah. Che pensier, che pensier che sarà. Vieni, vieni, carino, godiamo, che piacere sarà. Ah, ah, ah.